Questo, diciamo, capita in una giornata in cui non sono mancate anche le critiche invece sull'azione del Presidente della Repubblica, oltre che naturalmente sul Primo Ministro, ma questo giustamente lo trovate tutto nella rassegna stampa oggi in edicola. Bene, siamo in conclusione per questa prima parte. Vi ricordo solamente e vi anticipo, prendendo spunto da un dossier oggi pubblicato dalla Stampa, il titolo richiamato in prima pagina è Allarme carceri, sono disumane, affollamento e degrado, 1000 suicidi in 10 anni. Bene, questo sarà uno dei temi che tratteremo a partire dalle 8:20. Oggi parliamo di Turchia, parliamo dei rapporti complicati tra la Turchia e la Francia in questo specifico, ma insomma in senso più ampio tra Turchia ed Europa, ma poi parliamo anche di pianeta carceri. 24 mattino. Eccoci qua, 8:20 per la seconda parte di 24 mattino. Avete sentito interessante il commento di un'artista cubana a proposito della crisi italiana, visti con gli occhi di un paese povero, un paese come appunto Cuba. Ma insomma, spesso si tratta di punti di vista, di posizioni di partenza, e a questo proposito mi riallaccio a quello che la settimana scorsa è stato veramente il grande gelo sull'asse Francia-Turchia intorno ad una legge che parla di genocidi, di riconoscimenti, di divieto di revisionismi. Ecco, a questo proposito, proprio i detrattori della proposta di legge francese contro il negazionismo sui genocidi, incluso dunque quello armeno, hanno preso di mira la sua promotrice, la deputata di centrodestra all'UMP, Valérie Boyer, invadendo le sue pagine sui social network con ingiurie e minacce e piratando il suo sito. Un'ondata di rabbia e odio tale da convincere la donna, che sperava di superare la vicenda con indifferenza e disprezzo, come lei stessa ha detto, a sporgere una denuncia. Ecco, una vicenda storica evidentemente drammatica. Parliamo della sistematica caccia agli armeni negli anni del primo conflitto mondiale, quindi stiamo parlando di quasi 100 anni fa, che ha suscitato violente reazioni verbali per il momento dalla Turchia. Il premier Erdogan ha replicato al presidente Sarkozy, diciamo presidente francese, che peraltro dovrà firmare, quindi varare la legge, rinfacciando la storia algerina della Francia, ma ha anche aggiunto sostanzialmente: Sarkozy fa tutto questo solamente per assicurarsi i 500.000 voti dei franco armeni, dei francesi di origine armena. A proposito, tra i più famosi, probabilmente lo conoscete tutti quanti, Charles Aznavour è un esempio di questo mondo, diciamo, il cantante appunto franco-armeno, che oggi peraltro è ambasciatore dell'Armenia in Svizzera, insomma una voce che rappresenta anche una parte della storia degli armeni in Francia. Io ho bisogno di un aiuto per capire esattamente come mai questa vicenda storica suscita una reazione così aspra, a nostro avviso, da parte della Turchia. L'ho chiesto a una collega, si tratta di Marta Ottaviani, che è giornalista e scrittrice, che da tempo ha scelto Istanbul come suo punto come sua base di osservazione e lavoro. Buongiorno Marta. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, come mai i turchi sono così arrabbiati, almeno così anche livorosi nelle reazioni? Insomma, si rovescia la storia francese contro Sarkozy da questa iniziativa francese? Ma dunque, ci sono due problemi sostanziali. Il primo è quello della versione storica, il secondo sono le accuse che i turchi muovono soprattutto ai francesi. La versione turca è diametralmente opposta a quella comunemente accettata dalla comunità internazionale, che vede quasi 1,5 milioni di morti. Per la versione turca i morti furono al massimo 300.000 e soprattutto non furono uccisi in modo predeterminato, ma furono vittima, come dicono i turchi, di una tragica fatalità. Una versione che logicamente si scontra in maniera dura con quella invece che l'Armenia vorrebbe vedere riconosciuta e sulla quale da quasi un secolo è aperto un dibattito storico anche piuttosto serrato, ma che fino a questo momento non ha prodotto alcun risultato pratico in termini di conciliazione di versione condivisa, perché appunto i due dati sono veramente inconciliabili e soprattutto secondo la Turchia tutti i documenti prodotti per dimostrare che ci fu agli effetti un genocidio non sono validi, ecco, non Marta, sono documenti. Marta, la posizione turca in questo senso, diciamo, quella ufficiale qual è? Quindi non 1,5 milioni ma 300.000, ma soprattutto visto che la natura del genocidio, la caratteristica anche rispetto alla definizione che l'ONU ne dà, è il tentativo di estirpare totalmente un popolo, quindi per chiarezza gli ebrei in Germania, tentativo appunto di estirpare nell'insieme un popolo, piuttosto che molto più recente in Africa i Tutsi da parte degli Hutu. Quindi i turchi rigettano l'idea che gli armeni in quanto tali, lo ricordiamo, anche cristiani armeni, fossero l'obiettivo dello sterminio. Il punto è proprio questo: secondo la Turchia furono uccise circa 300.000 persone da bande non collegate tra di loro e soprattutto che non ebbero un input dal governo centrale, cosa che invece, secondo alcuni documenti anche di alcune rappresentanze diplomatiche che si trovavano in Turchia in quel tempo, avvenne esattamente il contrario. Quindi la posizione della Turchia è di non riconoscimento del genocidio, proprio perché non si trattò di uno sterminio premeditato, fu, come ho detto prima, per i turchi una tragica fatalità che ha causato anche secondo loro un grande dolore interno in seno alla Turchia, ma non ci fu 1 milione di morti e soprattutto non furono sterminati in modo premeditato. Ecco, a questo proposito, all'interno, diciamo, degli studi della storia e della storiografia turca, esistono posizioni divergenti oppure c'è un pensiero univoco che appunto di fatto sottolinea questa posizione che ci hai descritto, cioè c'è compattezza su questo tema all'interno del paese? Generalmente sì, ci sono poi storici come Taner Açkan che invece dicono che le vittime furono molto di più e soprattutto, cosa molto più interessante che solitamente non si fa in Europa, cercano di evidenziare quali furono poi le cause che portarono a questa tragedia immane, a questo sterminio di massa. Uno dei motivi per cui la Turchia è maggiormente risentita della legge francese è che secondo loro l'Europa si è svegliata con circa 100 anni di ritardo e ha cominciato a interessarsi alla causa armena solo adesso, che la causa armena potrebbe costituire un eventuale ulteriore ostacolo nei confronti dell'ingresso in Unione Europea. Mi permetto anche di ricordare che la legge votata dall'Assemblea Nazionale settimana scorsa arriva in un momento particolarmente nevralgico, perché dal 1 giugno del 2012 Cipro assumerà il semestre di presidenza di turno dell'Unione Europea e sappiamo che anche sul fronte Cipro ci sono molte tensioni fra Turchia ed Europa, molto spesso anche appunto per la Francia, che ritiene il riconoscimento di Cipro da parte turca un tassello essenziale per l'ingresso della Turchia in Unione Europea, e il riconoscimento è anche previsto dai negoziati, cioè finché la Turchia non riconosce la Repubblica di Cipro, che ricordiamolo, l'isola spaccata in due tra parte turca e parte greca dal 74 a causa dell'intervento delle truppe di Ankara, ecco, proprio anche questa situazione potrebbe contribuire a mettere in fase di stallo definitivamente i negoziati di adesione. Ecco, ricordo tra l'altro, appunto, Marta Ottaviani ha scritto due libri negli ultimi anni, Mille e una Turchia, Cose da turchi, storia e contraddizione di un paese a metà strada tra Oriente e Occidente, e forse per questo a volte come dire, non è facile per noi capire le dinamiche interne, le complessità di un grande paese che come dire, geograficamente posto davvero al crocevia di due mondi, un paese che ha saputo essere un modello di laicità nel mondo musulmano e nello stesso tempo fortemente radicato alle sue tradizioni. La vicenda armena è stata in qualche modo, diciamo, ricondotta alla fine dell'impero ottomano, ma nello stesso tempo coinvolge anche storicamente e direttamente la nuova Turchia, perché avvenne in un momento di transizione, cioè i turchi non hanno, come dire, certi meccanismi di disconoscimento storico che magari possono avere, per esempio, possiamo avere noi italiani rispetto a delle operazioni militari condotte durante il fascismo, è così? Assolutamente, conta che poi oltre alla questione armena ci sono altri fronti molto dolorosi aperti, come ne vorrei ricordare anche quello, insomma, lo scambio di popolazioni tra turchi e greci negli anni 20 e non possiamo tacere anche a questo riguardo la questione curda che insomma si trascina ancora oggi, quindi questa grande minoranza all'interno del paese di circa 15 milioni di persone che ancora oggi non riesce a vedere pienamente riconosciuti i suoi diritti. Il governo guidato da Recep Tayyip Erdogan ha promesso nuovi riconoscimenti nella Costituzione che vedrà la luce quest'anno. Siamo tutti in attesa. Certo, la questione armena rimane uno dei tasselli più dolorosi, anche perché, ricordiamolo, l'atteggiamento dei turchi nei suoi confronti è, devo dire, ancora oggi viene considerata proprio un tabù e purtroppo molto spesso l'Europa viene additata come quella che vuole per forza porre la Turchia di fronte a un passaggio così cruciale e drammatico della sua storia, ma non per fini storici o di conciliazione, ma per fini puramente politici. Grazie a Marta Ottaviani per essere stata con noi. Dunque, un tabù, e forse questo è l'elemento più preoccupante rispetto a un tema che affonda le radici nella storia, un tema che, lo ricordo, viene mantenuto vivo dallo sforzo di una comunità, quella armena in Francia, che vide proprio nella città di Marsiglia un punto di arrivo, di sbarco, di sicurezza, una comunità che certo oggi rappresenta, oggi come lo stesso Premier Turk Erdogan ha detto, un bacino di voti di quasi 500.000 voti, ma che non significa per questo che debba essere occultata dalla storia. Torniamo tra qualche minuto, cambiamo completamente tema, parliamo di carcere, in una fotografia che ci dice oggi 206 istituti nel territorio, 68.000 i detenuti, anzi 68.144 secondo i dati della scorsa settimana, 22.400 di loro in eccesso rispetto alle capacità. 24 mattino. 8:34 minuti, questa mattina ancora un saluto da Gigi Donelli al microfono, da Marco Lombardo, Elisabetta Fusconi in assistenza, da Peter Bescapè in regia. Dunque, le carceri, proprio dalla rassegna stampa, la stampa di Torino questa mattina, prigioni disumane, chi esce condannato a delinquere ancora. Il pranzo denuncia ieri, il pranzo di Sant'Egidio, Regina Celi, dice ci vuole subito un'amnistia per i reati meno gravi. La cattiva notizia, se l'è sottolineata da questo articolo di Giacomo Galeazzi, è che se si resta di più in carcere fino alla fine della pena in condizioni sempre più invivibili, una volta liberi si commettono più reati e si ritorna in cella. Così scrive questa mattina il collega Galeazzi. Ma allora io vorrei subito rivolgere la domanda a Enrico Sbriglia, che è segretario nazionale del CD, per il sindacato dei direttori dirigenti penitenziari. Innanzitutto grazie e buongiorno di essere con noi. Buongiorno a loro, grazie. Lei è d'accordo su questa frase, su questo passaggio, sulla cattiva notizia? Insomma, più si resta, peggio è, non solo per se stessi, ma per la società? Ma vede, aver trasformato le carceri in una sorta di serraglio, in un gran serraglio, è la prova eloquente di una mancata adesione dei principi di diritto che dovrebbero invece essere fortemente presenti nel nostro sistema. Tenga presente che solo il 23 scorso a Roma, un incontro con il Ministro della Giustizia, la professoressa Severino, e con il suo management board, mi sono permesso di rappresentare ancora una volta come i direttori penitenziari non siano assolutamente contrari a un provvedimento di amnistia. Amnistia in verità significherebbe dimenticare, e nel nostro caso è il contrario. Amnistia servirebbe per ricordare la situazione degradante nella quale siamo costretti ad operare. Ecco, ma amnistia, nel momento in cui si usa questo termine, la sensazione, la preoccupazione è che di fronte alla capacità di trasformare il sistema carcerario, allora si svuotino le carceri. Peraltro il famoso appunto svuota carceri, che non nasce oggi ma che periodicamente torna d'attualità. È questa la situazione, no, siamo a questo punto? No, non è proprio così dal mio punto di vista. Ecco, amnistia significherebbe soltanto esclusivamente il tentativo estremo, una sorta di automutilazione del diritto alla pena che lo Stato pure arroga, al fine di salvare quel principio di diritto che altrimenti morirebbe per sempre. Con l'amnistia in sostanza potremmo liberare finalmente tutta una serie di risorse soprattutto finanziarie, che ci consentirebbero di meglio rimodulare e rilanciare un sistema penitenziario in Italia che fosse veramente degno di questo nome, oltre al fatto che ci consentirebbe di dare, credo, i tempi tecnici per rivedere un pochettino la filosofia che sta alla base del nostro sistema dell'esecuzione penale. Vede, da noi stentano ad essere applicate delle misure che in altre realtà del mondo sono facilmente eseguibili, mi riferisco ad esempio alle misure alternative alla pena, le quali sono viste come una sorta di succedaneo della pena, non invece un'espressione che ha tutta la legittimità corrispondente alla pena in carcere. Ecco, a cosa si riferisce, per fare un esempio, sì, per chiarezza per gli ascoltatori? Sì, allora, mi riferisco che vi sono dei reati banali che potrebbero essere tranquillamente condannati con la semilibertà o con l'affidamento in prova a attivisti sociali o con comunque attività utili di riparazione verso la collettività. Quando ma non lei attraverso... dice reati banali, suppongo che parli di reati che non implicano delle forme di violenza, un pericolo sociale. Allora, certamente, guardi, abbiamo un codice penale talmente così tronfio, così largo, così grasso, che è spaventoso soltanto immaginare di poterlo governare. In realtà noi non siamo all'interno di situazioni in cui c'è certezza del diritto, ma al contrario, perché vede, quando un codice penale presenta forme di reato innumerevoli, per cui gli stessi tecnici non sanno più dove mettere mano, allora qualcosa non funziona. Tenga presente che lei le norme penali le trova ormai in tutto quel sistema di regole che riguardano la sanità, l'edilizia, il codice di navigazione, il codice commerciale, c'è una diffusione e un'atomizzazione del principio di reato che rende difficile creare quella certezza. La certezza è quando... E che fa letteralmente esplodere le carceri. Certamente. Anche quando non è necessariamente il caso. Vorrei salutare Riccardo Arena, che dirige tra l'altro Radio Carcere. Arena, buongiorno. Radio Carcere buongiorno è un punto di riferimento, di informazione su quello che è la vita carceraria. Aprendolo per esempio questa mattina, radiocarcere.com, leggiamo: Taranto, il 183esimo morto in carcere, notizia di un paio di giorni fa. Cosa succede in queste carceri italiane? Perché lei sceglie di aprire appunto con quello che di fatto è una classifica di questo anno? Sì, purtroppo, perché le morti nelle carceri non sono altro che la conseguenza del degrado che si vive oggi nelle carceri italiane, carceri dove ormai la pena viene eseguita, dobbiamo dirlo chiaramente, in maniera illegittima. Oggi la carcerazione in Italia è talmente degradante e disumana da veramente, ripeto, essere chiaramente definita come illegittima, un provvedimento eseguito in maniera illegittima. Ecco, Marena, quando dice degradante inumana, si riferisce a dei casi o alla norma? Perché siamo sempre anche un po' sbalorditi, chi non conosce questo mondo, dal fatto di sentire parlare, diciamo che siamo portati ad accettare l'idea che in alcune situazioni ci siano dei grossi interventi da fare, ma che sia così diffuso? Purtroppo è diventato diffuso, sì. Sì, come un'epidemia, no? Mentre prima in alcune strutture penitenziarie ancora si poteva eseguire la pena, ovvero la custodia cautelare in carcere, secondo i parametri legali, adesso ormai non lo è più, è come uno tsunami, un'epidemia, non so come esprimermi, ma è dilagante il sovraffollamento, potrei portare tantissimi casi, da sud, da Catania, dove si dorme addirittura sui tavoli, nelle celle, o fino ad arrivare fino su a Torino, alle Vallette, dove si dorme addirittura lungo i corridoi del carcere. Gli esempi purtroppo sono innumerevoli, a prescindere dalla buona volontà degli operatori nelle carceri, e sia ben chiaro, qui siamo di fronte a un collasso vero e proprio di un potere sovrano dello Stato. Le carceri sono soltanto la pendice più drammatica, diceva bene prima Enrico Sbriglia, ormai non c'è più certezza del diritto, soltanto infatti le persone che non conoscono il sistema giustizia parlano di, in maniera così un po' avventata, di certezza della pena. Da noi manca la certezza del diritto, certezza del diritto che, come diceva giustamente Enrico Sbriglia prima, manca innanzitutto perché abbiamo questo codice penale che prevede una marea di reati a volte che potrebbero essere puniti in maniera diversa e più efficace. Certezza del diritto che manca anche perché abbiamo un processo penale che ormai è collassato. Infatti servirebbe sia un'amnistia per il processo penale che un indulto per riportare legalità nelle carceri, perché l'amnistia serve al processo penale, non tanto alle carceri, ricordiamocelo. L'amnistia estingue reati, l'indulto estingue la pena. Io a questo proposito inviterei a ragionare su due piani. Noi dobbiamo affrontare innanzitutto l'emergenza giustizia con un'amnistia, l'emergenza carcere con un indulto, e allo stesso tempo dobbiamo investire sul sistema, ovvero modificando sia il processo penale che il sistema delle pene. Due piani di intervento, quello dell'emergenza e quello del sistema. Due piani di intervento, attenzione, strettamente collegati tra loro. Io sarei contrario a prevedere un'amnistia, un indulto e basta, come sarei contrario nel prevedere soltanto una riforma di sistema e basta. Servono tutte e due, come se ci trovassimo di fronte a una casa con il tetto crollato. Che facciamo? Pensiamo alla soffa dei divani e lasciamo piovere dentro casa col tetto crollato? Assolutamente no. Parliamo di case, in questo caso di case circondariali che sembrano però avere il tetto a posto. Saluto il direttore del carcere di Bollate, Massimo Parisi. Buongiorno, grazie di essere con noi. Buongiorno a lei. Spesso Bollate viene citato come il un po', diciamo, l'eccezione che conferma la regola. Innanzitutto si ritrova in questa descrizione, cioè il carcere rappresentato da ciò che dovrebbe essere per tutti. Ma guardi, Bollate è un istituto che, diciamo, sin dal suo concepimento, no, è stato attivato proprio per essere un progetto trattamentale e quindi contenere una serie di iniziative e garantire un certo grado di vivibilità. E quindi negli anni questo è stato mantenuto, e quindi concretamente, effettivamente, è un istituto in cui credo che la dignità dei detenuti venga preservata. Ecco, la questione qual è? Questione di soldi, di architettura? Che cos'è che ha reso Bollate diverso da questo quadro drammatico che viene descritto appunto da colleghi suoi e specialisti di questo ambito? Guardi, gli elementi sono, credo, diversi, indubbiamente un aspetto strutturale, un istituto nuovo, recente, quindi è stato attivato appena 10 anni fa. Credo che sia stata anche una scelta ben precisa, che sin dall'inizio, appunto, ripeto, dall'attivazione dell'istituto, sia il provveditore che il dipartimento hanno investito in un progetto trattamentale che adesso credo che sia una vera e propria realtà, un progetto che contiene, però vorrei anche evidenziarlo, 1200 detenuti, quindi comunque ad ampio raggio. Sicuramente l'aspetto strutturale, come diceva lei, e poi anche delle scelte molto mirate, molto, molto precise, credo anche in alcuni casi anche coraggiose. Eccoci qua ancora per una decina di minuti. Riccardo Arena, mi rivolgo a lei che è un osservatore specializzato. Bollate è effettivamente un esempio di questo tipo? Se sì, quanto raro nel panorama che, ripeto, lei descriveva poco fa, davvero drammatico? Siamo purtroppo purtroppo bollate come il carcere della Gorgona, sono delle strutture nate come esperimenti nati 10 anni fa, 12 anni fa, che danno degli ottimi risultati ma rimangono esperimenti. Questo è un mistero. Mosche bianche. Sì, ma è una cosa tipicamente italiana. Ciò che funziona rimane un esperimento per anni, ma perché non possiamo esportare ormai questo modello? Un modello che produce sicurezza per i cittadini. Lei prima lo ricordava giustamente nella sua introduzione, cioè oggi come oggi il carcere illegale, qui non è una questione di pietismo nei confronti dei detenuti, ma è una questione anche di sicurezza. Cioè un carcere che non funziona non produce sicurezza per i cittadini, perché si esce dopo aver scontato la pena peggiori e non migliori rispetto a quando si è entrati. Questo, noi dobbiamo arrivare a questo obiettivo, avere certezza del diritto, un processo dai tempi ragionevoli e pretendere che si esca dal carcere, cercare di ottenere che si esca dal carcere migliori e non peggiori rispetto a quando si è entrati. Che sarebbe Abbollate. Decisamente un passo importante. Sbriglia, mi scusi, quando quando parlate di un luogo che produce sicurezza, come dire, è un'idea da anime pie? Io non voglio essere polemico perché conosco la realtà di Bollate, che so essere una realtà importante, utile, ed è proprio questo che mi spaventa. Vede, io vorrei che le carceri fossero come McDonald's, dove entro e so perfettamente ciò che troverò, so il tipo di panino, so il tipo di bevanda, perché è così, e quindi non le nascondo che avrei una grande insicurezza, una grande preoccupazione come cittadino, se invece sapessi che questo non è possibile, per cui posso trovarmi in una realtà come quella di Bollate, ma potrei trovarmi anche in una realtà come quella di San Vittore o Milano Opera. E allora come la mettiamo? Cioè, come si spiega questa irragionevolezza? Un sistema che non riesca a fornire degli standard che siano comuni, uguali, produce già esso stesso una forma di giustizia. Tra l'altro lei citava tre istituti della stessa città, infatti, non a caso infatti, San Vittore, allora vede, Opera Bollate. Sì, allora vede, qualcosa non va, non batte, non. Attenzione, sono proprio i bellissimi esempi di Bollate, come di altre realtà, quelli che a volte consentono di nascondere un sistema enorme che non funziona e quindi addirittura svolgono una funzione che è certamente non per colpa degli operatori, anzi merito agli operatori, ma che è fuorviante rispetto a quello che noi dovremmo assicurare in ogni parte del paese. Parisi, lei ha la sensazione, direttore Parisi, ha la sensazione che la guardino un po' come... come dire, una mosca bianca piuttosto che come un caso di studio e che poi appunto non produca quella replicazione di un modello che funziona, le cose che funzionano appunto dovrebbero essere replicate. Guardi, io fino a 6 mesi fa lavoravo in una struttura diversa, lavoravo in una casa circondariale, quindi mi conosco appunto anche le altre realtà e mi rendo conto appunto che Bollate ha una sua assoluta specificità, ecco, non so se poi viene vista come mosca bianca. Indubbiamente è una realtà che ha una sua singolarità proprio nel grado della vivibilità, ma credo anche nella progettualità che è stata così concepita a monte. Io volevo un po' accodarmi anche a quello che diceva il collega Sbriglia, cioè sul fatto che c'è un sistema in cui comunque gli operatori, proprio per la grande difficoltà, per la grande emergenzialità, mettono veramente un grado di professionalità assolutamente importante e assolutamente veramente esteso. Cioè ci sono anche altre realtà che magari non vengono menzionate, ma in cui il livello di professionalità proprio legato alle difficoltà è equiparabile anche a quello di Bollate, mi sembra giusto dirlo. Assolutamente. Sbriglia, a proposito, il carcere non è ovviamente fatto solo da carcerati, ma se abbiamo parlato di 68.000 detenuti, sono certo che lei mi aiuterà nel definire invece il personale che lavora nelle carceri, intorno alle carceri in Italia, e forse vale la pena anche approfondire su questa fetta. Guardi, la ringrazio per questa domanda, perché sembrerebbe quasi come se uno stesso destino infame abbia ormai avvinghiato sia i detenuti che lo stesso personale. tenga presente che mentre si parla di realizzare nuove strutture penitenziarie, e su questo avremo anche molto da ragionare, ecco, sulla opportunità, non vengono realizzati i concorsi per assumere altro personale. Le immagini, un mare della pena dove vagano queste navi, che sono navi penitenziarie, dove addirittura non soltanto mancano i marinai, ma anche il comandante. Molte carceri italiane, non so se è stato già detto, mancano di direttore, cioè sono prive di colui che in qualche modo dovrebbe essere un punto di riferimento costante, anche per salvaguardare in ogni momento quei principi di legalità di cui spesso ci riempiamo la bocca. Ebbene, molte carceri sono prive di direttori. Giovanni da Varese, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno a lei. Prego. Buongiorno a lei. Senta, io sto ascoltando da qualche giorno questa polemica sulle carceri italiane. Indubbiamente è un grosso problema, ma i signori tipo Pannella, questi parlamentari che vanno a visitare le carceri ed escono fuori con aria esterrefatta denunciando appunto questo stato di cose. Ma sono mai stati al Cotugno di Napoli? Ma siete mai stati, signori, voi al San Camillo di Roma? O quindi lei non sta più parlando di istituti penitenziari, forse è il caso di specificare. No, io quello sta che parlando voglio dire di ospedali. No, io non parlo di ospedali, io dico questo, che fa parte di un degrado generale del paese, perché non è solamente, okay, non siamo in Svezia dove tutto funziona e le case sono degradate. Il degrado è talmente generale, ve ripeto, nei pronti soccorso muore la gente alle volte nel corridoio e la scoprono dopo 3 giorni. Allora di che stiamo parlando noi? Quindi in questo momento. Ma scusi, momento, Giovanni, non è lo stesso tema? No, dice nelle carceri bisogna arrivano dopo perché dico, sono certo, no, ma si può anche dire per carità. Un caso di priorità, certo, dire, lei dice è una questione. I concittadini, che poi la maggior parte non sono neanche concittadini, che sono la maggior parte extracomunitari. Ok, lei ne fa quindi una questione di priorità e magari anche di nazionalità. Grazie Giovanni. Quindi dice Giovanni chiarissimo, per carità, io non sono d'accordo con lui, ma questo è il bello della radio. Come dire, c'è una priorità. Certo, tra se ho un euro per darlo appunto a un ospedale o a un carcere, a quel punto, messo di fronte a questa realtà, forse credo anch'io lo darei all'ospedale, ma a questo punto, ma è questa la chiave della questione. Io vorrei tornare con Riccardo Arena. È vero o non è vero che queste denunce, questa esigenza di trasformazione è capace di ridurre, è in grado di ridurre l'insicurezza nel nostro paese? Perché se no effettivamente sembra che la preoccupazione si concentri al 100% sul benessere del carcerato. No, ma io invece, vedi, per esempio sono d'accordo con Giovanni. Lui secondo me coglie un punto essenziale. È vero che il collasso, il degrado carcerario deve essere anzi vissuto alla stessa maniera con cui si vive il degrado di un ospedale. Cioè, ha sì, perfettamente ragione, si anzi, noi avremo bisogno di una politica che sfrutti gli esempi virtuosi sia negli ospedali che nelle carceri per far sì che siano applicate in tutta Italia. Va bene, cioè, ma questa poi, come dire, ogni... è teoria. Ora le carceri, no, dovremmo avere il peraltro coraggio di farlo. Affermare che la situazione degli ospedali è simile a quella delle carceri per me lascia parecchio spazio al dubbio. Gli ospedali li frequento, le carceri fortunatamente no, ma voglio dire, il panorama che descrivete è di ben altro livello, è un luogo dove come dire, si coltiva violenza, insicurezza, e questo è l'elemento che trovo più preoccupante. È questo l'elemento più preoccupante ed è un elemento strettamente collegato all'esistenza stessa del nostro Stato di diritto, ovvero di uno Stato che dovrebbe far rispettare le regole e dovrebbe essere lo Stato il primo a rispettare le regole. Vedi, dal degrado delle carceri potrebbe svilupparsi, ampliarsi anzi, un effetto a catena dell'illegalità. Se in una struttura dello Stato come le carceri non si rispetta la legge, allora a quel punto crolla tutto un sistema. Si può non rispettare la legge in qualsiasi altro istituto dello Stato, con particolare riferimento alle persone detenute che giustamente devono scontare una pena, perché sia chiaro, nessuno qui cerca impunità. Noi stiamo cercando, credo anche con Enrico Sbriglia e con il direttore del carcere di Bollate, si sta cercando il modello migliore per far scontare una pena, non si sta eludendo questo concetto. Il modello migliore non è quello attuale, ecco, e per farlo magari senza appunto produrre, come nelle denunce ricorrenti, addirittura come dire, dei sorte di master di, esatto, di violenza e di certo, e criminalità. Allora vorrei certo, concludere con Enrico Sbriglia. Una, nei giorni scorsi avrei voluto parlarne, ma siamo arrivati un po' lunghi. Si parla di appunto nell'intervento tra Ministro degli Interni, Guarda Sigilli, si parla di camere sicurezza sì, e di arresti che non arrivano al carcere ma alle camere di sicurezza. Ce lo può sì, spiegare brevemente di ma che guardi, si tratta? È una cosa abbastanza importante, perché anzitutto sono stati ridotti i termini temporali entro i quali la persona arrestata dovrà o meno rimanere all'interno di una situazione di privazione di libertà, che è stato poi ridotto a 48 sì, ore. A 48 sì, ore, che significa che ci sono 48 ore di tempo dal momento in cui una persona subisce la privazione di libertà perché si confermi questo stato. Ciò significa mettere in moto e velocemente tutta una serie di funzioni che invece erano fino a qualche tempo fa più lente. Costringe praticamente sia le forze di polizia ma lo stesso magistrato a non saper più distinguere, come avviene per l'operatore penitenziario, la domenica dal sabato. Significa farsi carico immediatamente di una situazione che può essere difficile e quindi può spingere addirittura ad un atteggiamento diverso, più prudente, nell'atto di decidere o meno l'arresto di una persona. Insomma, cioè, secondo Enrico Sbriglia, che ringrazio, lo ricordo, il segretario nazionale del SIDI, sì, volevo solo chiedere una cosa, ecco, solo un secondo. Ritornando a quello che diceva il signor Giovanni, è strano però verificare come nelle carceri tante di quelle persone che realizzano quel sistema della sanità così indegno non siano ospiti. Grazie a Enrico Sbriglia, grazie a Riccardo Arena, Massimo Parisi. Siamo in conclusione, noi torniamo domani mattina, adesso l'appuntamento con GR24 e poi naturalmente Oscar Giannino. A più tardi, buona giornata a tutti.